9 in punto. A meno di 10 anni. Meno di 10? Sì. Lei sa? Cosa? Allora. Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici, e benvenuti a 9 in punto. Avete sentito partire un audio che abbiamo utilizzato qualche giorno fa, e invece la trasmissione, se Carmelo Lauricella mi dà un ok in regia, volevamo farla partire così. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: buon pomeriggio Lorella, a te, tuoi ospiti, a tutti gli italiani sintonizzati. È questo veramente un evento stellare. Stanno arrivando le varie personalità che stanno prendendo in qualche modo posto all'interno della Basilica. Dovrebbe mancare molto l'arrivo di Valeria Marini. Attenzione, questa è già una novità, perché tutti gli amici di Valeria dicono che è sempre in ritardo. E quello che stiamo vedendo invece ora in onda in esclusiva sotto di noi sono le... E dunque, eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Abbiamo voluto, insomma, forse provocatoriamente, magari qualche dipendente Rai all'ascolto se ne avrà a male, mettere insieme due momenti, no? Il momento dell'inizio delle trasmissioni della Rai e quello che, a mio giudizio, non so a vostro, è stato uno dei punti più bassi degli ultimi anni, almeno dal punto di vista di un'azienda che dovrebbe fare servizio pubblico, che è l'acquisto dei diritti della diretta di Valeria Marini. Poi, per carità, ci sono anche dei soldi da raccogliere, i conti dell'azienda sono in rosso, e però. La realtà è che vogliamo partire dalla vicenda di ERT, la televisione pubblica greca. Il governo ha deciso di privatizzare tutto d'un botto, nell'ambito anche del piano di licenziamento dei dipendenti pubblici e dismissioni imposto dalla Troika. Tra le motivazioni ufficiali che hanno condotto alla decisione, il fatto che nella ERT, queste sono le parole del portavoce dell'esecutivo, ci sono sacche di opacità e incredibile spreco di denaro pubblico. A qualcuno ha fatto venire in mente questa definizione anche la stessa RAI. C'è già chi, forse provocatoriamente, forse no, dice: beh, insomma, anche se non c'è la Troika, facciamo la stessa cosa e vendiamola finalmente questa TV pubblica. Tra chi, oltre al titolo di apertura di Libero oggi, è "Vendiamo la RAI", e tra costoro abbiamo pescato ieri un tweet di Fabrizio Rondolino. Buongiorno. Buongiorno. Giornalista e scrittore, curatore con Claudio Velardi del sito thefrontpage.it. Allora, RAI da azzerare secondo lei? Beh, insomma, adesso magari proprio chiuderla dalla sera alla mattina e spegnere il segnale come l'ha fatto in Grecia, forse un po' eccessivo. Però io non riesco a capire francamente a che cosa serva il servizio pubblico, che non è pubblico come noto, ma è proprietà privata dei partiti, no? Che nominano e snominano le carriere, i dirigenti, i conduttori, i giornalisti, e che fanno poi pagare tutto questo ai cittadini attraverso il canone. Quindi sì, io penso che il servizio pubblico vada, il cosiddetto servizio pubblico vada smobilitato. Smobilitato. 800240024 per intervenire in diretta, la nostra pagina Facebook è www.facebook.com/9in.radio24, dove state intervenendo già da questa mattina, poi leggerò qualcosa. Se volete mi trovate su Twitter, Simone Spezia. Saluto anche Corradino Mineo, giornalista, ex direttore di Rai News 24 e ora senatore del Partito Democratico. Buongiorno Mineo. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, ha sentito cosa dice Rondolino, ha sentito cosa titola Libero, poi noi naturalmente andremo più nel dettaglio sulla vicenda di ERT, che naturalmente è diversa, e lo faremo con Dimitri Deliolanes, che è corrispondente dell'emittente da Roma, lo è stato per 30 anni, è già al telefono con noi, ma intanto, insomma, Mineo, voglio una sua idea su questo. Allora, io innanzitutto vi prego poi di farvi parlare un momento sulla vicenda greca, perché merita un po' di assolutamente, assolutamente. E non amo il fatto che i giornali parlino solo di cose italiane e che tutto diventi, come dire, un'occasione per parlare delle solite cose nostre. Per quanto riguarda la RAI, io non so di che cosa parlano quelli che dicono vendiamola, facciamo, non so di che cosa parlino, perché tanto tempo fa si pose il problema, quando c'era il simmetrico, diciamo, la spartizione RAI Fininvest, il duopolio simmetrico, no? Mi ricordo che a quei tempi non credo che Rondolino stesse con un uomo politico molto importante e quindi avesse una posizione molto prudente sulla Mediaset. Beh, allora alcuni di noi, il suo Santoro, io, dicevamo vabbè, ma rompiamo questo duopolio e vendiamo la parte della RAI o privatizziamola, non lo consideriamo un tabù. Non se ne è fatto nulla. Guardate, la storia della RAI è questa, la dico in tre parole. Riccelli, amico il padre di D'Alema, e prova a costruire le divisioni all'interno della RAI, operazione tra l'altro dal punto di vista industriale fallita, per poter eventualmente domani valorizzare questa azienda e privatizzarla. Rivince la destra, Gasparri, Masi, direttore generale, poi lei, la RAI viene riministerializzata, per cui oggi non sapresti cosa vendere, come vendere, assolutamente no. L'hai ricentralizzata, l'hai trasformata di nuovo in un ministero. Questa cosa è stata fatta da Mauro Masi e Lorenza Lei, diciamo, io me ne ricordo bene perché il nome di questa ministerializzazione pesava fortemente il condizionamento e la censura su chiunque volesse fare giornalismo in un modo un po' diverso. Arrivano i tecnici, l'attuale direttore generale Gubitosi, non tocca tutta la produzione editoriale, cioè quello che dovrebbe essere il centro della RAI, mette uomini di sua fiducia privati, presi dal privato, amici suoi prima che arrivasse alla RAI, in tutti i posti centrali dell'azienda. Quindi da un certo punto di vista c'è una privatizzazione di fatto: il direttore amministrativo, gli acquisti, la Sipra, i rapporti istituzionali, i rapporti esterni, l'audit, la sicurezza interna. Tutto questo è gestito da manager che si è portato Gubitosi sulla base di una delega che i tecnici hanno avuti senza passare al consiglio di amministrazione. Dall'altro lato, sulla parte editoriale, si lascia tutto com'è, sperando che tornino le vacche magre. Questa è la situazione. Allora, tutte le persone serie dovrebbero chiedersi e chiedere come facciamo a salvare un patrimonio produttivo, perché sapete, la RAI c'ha tanti difetti, ma insomma tanti italiani la seguono, forse è anche quello un patrimonio, non solo, come disse una volta D'Alema, Rondolino se lo ricorda, un patrimonio degli italiani e Mediaset, no? Spiego. Allora forse dovremmo occuparci di questo. Invece, diciamo, con queste polemiche di stampa facciamo il gioco di coloro i quali hanno abusato del servizio pubblico per anni, anni e anni. Voglio tornare poi su questo, Mineo, perché secondo me il tema veramente interessante e che lei sottoponeva e che potrebbe essere eventualmente un punto di mediazione è, non lo so, la lancio così e poi magari ne ragioniamo, l'ipotesi della famosa bad company e good company, cioè c'è un pezzo della RAI che fa oggettivamente servizio pubblico e fa un ottimo servizio pubblico, e c'è un pezzo della RAI, abbiamo trasmesso prima appunto l'audio, no, della diretta acquistata del matrimonio di Valeria Marini, che insomma francamente qualche dubbio ce lo lascio in tutta sincerità. Posso farle un titolo su questo? Sì. Allora, smobilitiamo l'Auditel. L'Auditel è un sistema di controllo degli ascolti che serve solo per vendere pubblicità, ma non per vendere pubblicità in ogni caso, per vendere pubblicità come si vende in Italia, con i maxi sconti voluti dall'altro, da Silvio Berlusconi, per rastrellare il fondo del barile, per cui pubblicità non ne resta per nessuno. Questo è il punto, cioè io le assicuro che Travaglio, grande giornalista, dice che nel 24, quando la dirigevo io, non la vedeva nessuno. Vabbè, una volta posso andare in giro e vedere che le persone che ne pensano. Ma i numeri di Rai News 24 sono irrilevanti per la pubblicità. i numeri di trasmissioni che nessuno sente, di cui nessuno si ricorda, neppure lo spot pubblicitario, sono milioni e quindi sono appetibilissimi per il mercato pubblicitario. Guardate che diciamo, cantare la bad company è inutile se non si colpisce il conflitto di interessi. Di dove agisce il mercato pubblicitario? Allora, Dimitri degli Oranes, poi ci sono già degli ascoltatori in attesa e voglio farli intervenire a proposito del tema della RAI, però naturalmente voglio fare anche un punto di cronaca su quello che effettivamente è successo alla ERT. Come ti dicevo, Dimitri, insomma, lo conoscete, appunto, lo ripeto, è stato corrispondente per 30 anni dell'azienda pubblica, della TV pubblica greca da Roma, è stato già ospite nostro altre volte e su altri argomenti, insomma, appunto sulla anche tu, anche tu nella sì, vostra TV. Anch'io nella vostra TV, come diciamo presunto esperto di rapporti tra internet e politica. Allora, Dimitri, vorrei capire un po' come nasce tutto questo, perché da quel che ho capito c'era un problema. Bisognava gestire 700 pensionamenti anticipati e 600 esuberi incentivati. Dopo un anno di trattativa non se ne è arrivati ad una. A quel punto il governo ha deciso il colpo di mano, lasciando la Grecia unico paese in Europa, credo, senza una TV pubblica. Sì, hai descritto bene, solo una piccola precisazione. Tutto questo progetto qua non mira alla privatizzazione. La parola privatizzazione è stato un errore che ha fatto l'ANSA nel trasmettere la notizia dopo l'annuncio di martedì pomeriggio del portavoce del governo, che dico, nessuno parla di privatizzazione, si parla di chiusura e di futura creazione di una nuova radiotelevisione pubblica che si chiamerà Nuova Democrazia TV. Spero che non si chiami col nome di un partito, perché sarebbe veramente troppo, in tutta sincerità. Sarà più o meno così, diciamocelo chiaramente. Sì, il problema degli esuberi è sicuramente ha giocato un ruolo non secondario, ma il gioco principale è un gioco molto molto greco. Tu che hai letto il mio libro sulla crisi come la Grecia del 2011, lo sai, perché ci ho dedicato un intero capitolo su questo problema qua. E il progetto di Samaras è di affidare completamente l'informazione televisiva ai canali privati, perché sono gli unici, sono i canali privati che gli danno consenso e lo sostengono. La televisione pubblica, per quanto sia controllata dal governo, ha avuto sempre un atteggiamento di distacco, di critica e non di sostegno plaudente, come invece hanno i canali privati. E questo è il problema, particolarmente adesso, in cui il success story tanto pubblicizzato da Samaras si è dimostrata essere una pandonia mediatica, e il paese sta, il governo sta prendendo decisioni molto molto drammatiche e molto dolorose, come appunto il licenziamento degli statali, che stanno creando un fragile, la situazione molto molto difficile per la coalizione di governo. Dimitri, ci togli una curiosità, tu eri tra gli esuberi? Certo, siamo tutti licenziati. No, adesso sì, ma prima nella fase di trattativa. Non c'è stata nessuna fase di trattativa, c'era un'ipotesi, se ne parlava nella stampa, se ne parlava tra noi, ne parlava tra la rappresentante sindacale, che tra le misure che prevedevano la diminuzione del numero degli statali, probabilmente sarebbe stata colpita anche l'ERT, giustamente, o con la privatizzazione di un canale dei tre, oppure con il prepensionamento, gli scivoli, insomma varie misure per far diminuire il numero degli impiegati. Al posto di questo, non è che vanno due misure in contemporanea, no, o l'una o l'altra, il governo ha deciso di licenziare tutti quanti, quindi sono licenziato anch'io. Allora, Marco da Genova, buongiorno. Buongiorno, guarda, io sono un veterano per sostenere la privatizzazione della RAI, almeno dal 2008, ma non è solo la RAI che privatizzerei. Comunque la RAI mi sembra la prima che si possa fare come operazione, perché un ente che in una situazione di privilegio, con un contributo che si paga sia permanentemente in deficit e noi dobbiamo ripagare per ripianare, mi sembra che sia dimostrato storicamente come largamente inefficiente. e quindi non mi sembra che abbia diritto ad un premio di fiducia per altri 50 anni. Mi sembra semplicemente che se proprio si vuole tenere, si tiene una RAI, una televisione regionale che le regioni possono pagare oppure cedere anche loro, e quella statale, i due canali statali vengono ceduti tranquillamente al miglior offerente che ti abbassa un pochettino il debito. Non c'è nessun senso di avere una televisione largamente commerciale, largamente di mediocre livello al peso dello Stato. Facciamo tante storie sull'IMU che ci costa 200 euro mediamente tra tutti i cittadini, bene, la metà ci viene regalata dalla chiusura della RAI. Grazie Marco. Antonello dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di avermi richiamato. Ma da quello che so mi pare ci sono 40.000 persone in RAI. Sono 13.000 i dipendenti. 13.000, allora mi sono sbagliato. Ma uno snellimento come minimo è da contemplare, quindi non basta guardare le persone che intervengono nelle cose nazionali sportive, fare un intervento uno da una parte o dall'altra. Antonello, guardi, prendiamo male il cellulare, però abbiamo capito, insomma, lei parla di snellimento. Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno Carlo, mi sente? Sì, la sento un po' distorto, tenga la bocca un po' più lontana dalla cornetta perché rovina le orecchie. Perfetto, no, io mi sono un po', lei è una persona molto pacata, mi sono un po' stupito dall'incipit della trasmissione perché diceva a cancellare la RAI, ma cosa vuol dire? La RAI è da riformare, da sistemare tutto quello che si vuole, ma la TV pubblica serve. La questione è se la RAI fa la TV pubblica, se promuove la cultura, se promuove l'integrazione, se promuove qualcosa. Io vedo cose molto più interessanti sulla 7, su quel canale musicale straniero, è l'unico che racconta i giovani perché fa dei documentari sui giovani, sulla realtà italiana. Questa cosa la RAI non la fa, ma secondo lei, che è un giornalista, la RAI andrebbe cancellata? È una domanda da porre, secondo lei? Come sente c'è chi lo sostiene, insomma, non mi sembra che non se ne possa discutere, insomma, ecco. Tra l'altro tenga anche presente che c'è un referendum per la privatizzazione della RAI, che mi segnalano anche molti ascoltatori e me lo ricordano, che è stato votato ed è stata approvata la privatizzazione della RAI, quindi semplicemente una cosa, le ripeto, sulla quale molto semplicemente stiamo ragionando. 9 in punto. Per una risposta più completa all'ascoltatore di prima e anche a tutti coloro che vedo che ci scrivono sulla nostra bacheca Facebook e mi scrivono anche su Twitter, frasi come eliminare RAI e canone, super favorevole, privatizzare tutto e piuttosto, insomma, utilizzare i soldi per abbattere il debito pubblico. Il punto qual è? Perché si arriva al punto di dire perché non azzerare la RAI? Perché, come tante volte in questo paese, è un problema che ci trasciniamo dietro da troppo tempo. Allora, la tentazione della soluzione facile, visto che non si riesce a procedere con le soluzioni difficili, ad arrivare a quel modello BBC, tanto per dire, che molti invocano, mi scrivete su questo anche appunto su Facebook e su Twitter, visto che non si riesce ad arrivare a quel modello e ci proviamo da sempre a sganciare la RAI dai partiti, da quanto ne parliamo di sganciare la RAI dai partiti? Da troppo tempo. Allora viene la tentazione della soluzione facile, semplicemente è questo il punto. Allora Rondolino, per una risposta anche a Mineo, naturalmente. Ma non credo che sia una soluzione di per sé facile quella di privatizzare, perché tant'è che non si fa, è molto più facile tenere questo grande baraccone e mantenere migliaia. Sì, dico, migliaia. Mi perdoni, forse mi sono espresso male, è l'idea dell'azzeramento facile, no? Certo, il concetto dell'azzeramento è più facile. Sì, perché lo dice tabula rasa e così. Beh, io ne farei anche una questione, anzi ne farei prima di tutto una questione di principio, cioè lo Stato in una società libera, in una società democratica, fa il regolatore, non fa mai il player, come si dice. Cioè, immaginiamo se succedesse così con i giornali, se metà, un terzo dei giornali fossero di proprietà pubblica, fatti dallo Stato, e ciascuno di noi, anche quelli che non leggono i giornali dello Stato, dovesse pagare 100 euro l'anno di canone. Ci sembrerebbe una cosa assurda, no? Se col web succedesse una cosa del genere, se metà dei siti fossero di proprietà dello Stato e venissero, diciamo, i webmaster venissero nominati dai partiti e noi tutti dovessimo pagare una tassa sul web. Dunque, visto in questi termini, la questione della RAI è una questione, come dire, è un relitto del passato che noi ci portiamo appresso, è come il finanziamento pubblico ai partiti, sono quelle cose che avevano forse un senso nell'Italia degli anni 50 e 60, che doveva appunto ricostruirsi, ritrovare una sua identità. Io mica nego che la RAI abbia avuto una funzione storica fondamentale, ma nel momento in cui il mercato si apre, e il mercato si apre perché fare la televisione costa di meno che non negli anni 40 o 50, quando era una tecnologia, diciamo così, sperimentale, nel momento in cui si apre il mercato, il compito dello Stato è quello di consentire che tutti giochino la partita in modo equo, quindi che non ci siano i conflitti di interesse, che non ci siano i trust, che non ci siano le concentrazioni, che non ci sia il dumping, cioè tutte queste cose che fanno i regolatori. Dopodiché vinca il migliore. Io non riesco a capire perché mai lo Stato debba occuparsi, per esempio, di promuovere la cultura attraverso la televisione. No, lo Stato deve consentire a chi fa cultura, per esempio, di detrarre fiscalmente una serie di spese, no? Dopodiché non può essere lo Stato chi per lui che decide che cosa è, chi la può fare e a chi la può diciamo così, indirizzare. Questo è il modello teorico, perché poi, la pratica, come sappiamo, è tutta un'altra, cioè la pratica è che la RAI è una TV commerciale esattamente come tutte le altre, più sto balzello del canone, e però diretta da funzionari di partito, come appunto Mineo dimostra, no? La carriera di Mineo è stata tutta decisa dai partiti e giustamente lui adesso fa il senatore di un partito, quindi come Minzolini, insomma l'elenco è pressoché infinito, no? Allora dico io, ma perché dobbiamo avere tutta questa cosa qua? Possiamo tranquillamente avere un sistema radiotelevisivo privato, regolato, con regole certe, buone per tutti, e lo Stato si occupa d'altro. A questo punto devo far rispondere Mineo, naturalmente, insomma, poi chiamato direttamente. Sono un po' così stanco. Rondolino ha fatto l'uomo di partito, non sono mai stato uomo di partito, non ho mai avuto nessun vantaggio. Ho criticato il PD molto più duramente di quanto non avessi mai creduto. Beh, non avresti mai fatto il direttore di Rai News 24. Se io ho fatto il direttore di Rai News 24 grazie al fatto che è stato nominato da un partito. Cosa Alessandro dirlo, per favore, ma non ci conosciamo da vent'anni, avanti, dai. Non diciamo sciocchezze, cosa diciamo sciocchezze. Ma non saresti mai neanche andato, non avresti mai neanche fatto redattore ordinario se fuori da ogni logica di partito. Io non ho mai avuto un imprimatur di partito. Rondolino lo sa e mente perché è un bugiardo professionale. Poi però vorrei anche dire che il canone esiste in tanti paesi. Allora, fermi un attimo, ve le siete dette, ok, adesso giù il cursore a Rondolino, così ritorniamo sul tema sulla sostanza. Lo sa e mente, punto. No, sa benissimo quanti partiti siano scatenati contro di me. Cosa ha detto sul tribunale, Mineo, che non ho capito? No, io non l'ho mai fatto, non ho mai querelato nessuno, ma davanti a un bugiardo, diciamo, senza pudore, lui sa benissimo che la mia vita in azienda è stata caratterizzata da un fortissimo contrasto dei partiti, sia di destra che di sinistra, che la mia nomina è stata voluta da Alessandro Curzi, io non l'ho chiesta, che era un uomo della sinistra ma assolutamente fuori dai giochi, che sono stato votato non in un pacchetto di nomine e che non sono stato sostenuto da nessuno negli anni in cui ero al vertice di Rai News 24. Posso citare testimoni di destra che lo sanno, perché l'uso di questa cosa per nascondere le male fatte di un potere che... Il problema, sapete qual è? Per esempio, quanto è contato Bisignani nelle nomine? e quanto contano le nomine private. Cioè questa, se questa semplificazione per cui c'è turismo privato buono e poi quello pubblico è una vergogna, una mistificazione. In Inghilterra si paga il canone, in Francia se non ci fosse l'intervento pubblico non avrebbero fatto film di qualità, avrebbero come noi o quasi come noi solo il cinepanettoni. Abbiate pazienza, cioè se questo è il punto. Poi veramente io sono andato via dalla RAI quando non ce la facevo più a sostenere da solo lo scontro contro il governo tecnico che era stato voluto da PD e PDL sostanzialmente, e a quel punto come cittadino libero ho fatto una mia scelta. Francamente dire che sono lottizzato veramente è troppo. Facciamo una cosa, io adesso poi voglio far rispondere Rondolino, però voglio anche ritornare un attimo sul tema Mineo. Allora, come se ne esce da questa cosa? Perché, come dicevo, il problema è che ne parliamo da troppo tempo, come tanti problemi del paese, no? La voglia di azzerare tutto viene perché uno dice, insomma, non è possibile. Da quanto parliamo dell'aggancio della RAI ai partiti? Da quanto tempo parliamo di un'azienda evidentemente largamente non efficiente? No, che anche l'anno scorso ha perso, mi pare, 244 milioni di euro. Insomma, ci vuole una via di soluzione, in qualche modo bisogna uscirne o no? Assolutamente sì, ma la prima via di soluzione è naturalmente riformarla, e non la si è voluta riformare, questo è il punto. La prima via, vogliamo anche decidere di privatizzarla, va bene, allora spiegatemi chi sono gli acquirenti. Qual è la logica, quali sono le regole di mercato, stabiliamo una legge sul conflitto di interessi. Noi non abbiamo niente di tutto questo, noi venderemmo la RAI agli amici di Bisignani, il quale Bisignani ha avuto la parola decisiva nella nomina degli ultimi direttori generali. Ragazzi, questo è il punto, cioè fate finta di avere un capitalismo moderno e liberale mentre avete un capitalismo inquinato, e poi dite liberiamoci della RAI, sarebbe persino peggio. Perché io sono contro le inefficienze, non ho nulla contro il privato, ma il privato privato, il privato vero. Tra l'altro il canone, che vergogna se i giornali pagassero il canone. I giornali, perché scusa, i giornali non hanno sovvenzioni pubbliche? Libero non ha sovvenzioni pubbliche in questo paese? Le tiriamo fuori queste cose? Sì, ma non è di proprietà dello Stato, però cioè i giornali non sono di proprietà dello Stato, insomma, il punto, il ragionamento era anche questo. Allora, Rondolino, a questo punto la faccio rispondere, scusi se abbiamo abbassato il cursore, però insomma, finché ci si limita al minuto di tensione va bene, ma in questa trasmissione di solito preferisco evitare questo tipo di cose. Prego. No, non voglio mica litigare, è che è talmente evidente che i partiti nominano, c'è persino una commissione di vigilanza, una roba che esiste credo solo in Corea del Nord, no? Il Parlamento che si riunisce per decidere che cosa deve andare in onda, che cosa non deve andare in onda, che fa le interrogazioni parlamentari appunto sul, quindi come dire, a me fa ridere Corradino, è un ragazzo simpatico, diciamo così, ma è evidente che chiunque di dentro c'è perché un partito ce l'ha mandato, poi può essere una corrente di un partito, può essere una corrente in disgrazia di un partito che sopravvive e si perpetua, però insomma sono tutte dinamiche abbastanza note, quindi diciamo su questo non è che c'è bisogno più di tanto di tornare, e il punto è che se è come un paese come il nostro che ha tanti problemi di debito pubblico e di partitocrazia, diciamo così, poi le due cose spesso vanno insieme, no? Perché il modo migliore che hanno i partiti per aumentare il proprio consenso è quello di spendere denaro pubblico, questo lo sappiamo. Se in questo contesto non abbia senso effettivamente cominciare una privatizzazione della RAI, cioè togliere risorse e togliere, diciamo così, potere al sistema dei partiti, e quindi restituire in qualche modo la RAI ai cittadini, dove per restituire la RAI ai cittadini si intende una televisione che appunto regola molto di più il mercato che non lo Stato. Mi chiudo su questo perché mi ha colpito dei tre ascoltatori che abbiamo sentito. L'unico a favore della RAI ha anche detto che non la guarda, e cioè che la 7 MTV, se ho sentito bene, fanno un servizio pubblico migliore, e questa è proprio la prova che in un mercato aperto poi dopo ciascuno si trova, come dire, i canali che preferisce, e ciascun emittente è in grado poi di inventarsi un'offerta per questo quel segmento di mercato, come ripeto avviene in edicola, avviene in libreria, no? Dove ci sono libri e giornali di cultura e libri e giornali di schifezze, vanno bene tutti quanti, purché naturalmente non vengano pagati da una tassa di tutti. Allora, adesso ci prendiamo una pausa, c'è la viabilità, poi voglio sentire qualche altro ascoltatore e poi voglio sentire Dimitri Deliolanes, che abbiamo abbandonato un po' negli ultimi 10 minuti, avete sentito anche perché, perché gli voglio chiedere quanto sia presente tutto questo, insomma, quanto sia invadente, quanto sia stata invadente anche la politica nella TV pubblica greca, cioè se questo parallelo che abbiamo fatto all'inizio, anche provocatoriamente o anche no, quanto regga anche da questo punto di vista. 9 in punto. Niente più politici oramai in Rai. Niente più politici, lo sai. Niente più politici oramai in Rai. Niente più politici, lo sai. Salvo dalla provincia di Catania, buongiorno. Buongiorno, dottore Spezzi. Non sono allora, dottore, prego comunque. Buongiorno. Ascolti, io volevo fare un piccolo intervento. Innanzitutto quello che è pubblico dovrebbe rimanere pubblico, ma dovrebbe cambiare la gestione vera e propria. Quindi dovremmo mettere da parte i politici che ne fanno proprio una forza di potere per raccogliere anche consensi e voti. Ma quello che dal mio punto di vista dovrebbe anche cambiare e sta dalla parte dei dipendenti, perché secondo me tutti quelli che lavorano all'interno della cosa pubblica sono, tra virgolette, autorizzati a compiere o a fare determinate cose. Io le raccolgo la mia brevissima esperienza. Io ho lavorato per un anno all'interno di una società di filmmeccanica. Lasciamo perdere il modo come mi hanno fatto entrare e poi mi hanno sbattuto fuori, dico. Però io ho visto delle cose inaudite. Cioè, per farlo un esempio, per spostare anche una semplice scrivania che è da privato, e premetto che io ho sempre lavorato nel settore privato, per spostare una scrivania, cosa che se lei dovesse chiamare un traslocatore o qualsiasi cosa, le costa 10, all'interno costava 100, non solo, ma all'interno di questa società c'era un servizio, le posso dire una cosa più stupida, il servizio mensa, facevano degli scioperi, quindi bloccavano la produzione anche per 2-3 giorni, solo perché negli accordi era previsto la marca di un tonno piuttosto che un altro. Cioè, io ho visto delle cose assurde. Bisogna cambiare mentalità. È un bel grazie Salvo, grazie Salvo, che questo è un bel ritrattino del paese. Il problema poi è che quando il problema è farlo funzionare il pubblico, no? Perché il punto è quello, insomma, poi insomma posizioni si ritiene, alcuni ritengono che appunto il pubblico in certe cose proprio non ci debba stare, ma a prescindere da tutto, se il pubblico ce l'hai almeno farlo funzionare. Massimo da Roma, vi raccomando massima brevità, prego. Pronto? Volevo dire una cosa, cioè la RAI, breve, sì, la RAI si dice ente pubblico, società privata, il titolo, il padrone è lo Stato, eccetera, eccetera. Ma quando mai è stato fatto, eccetto quel concorso negli anni 60, un concorso pubblico, questa formula di fare una società privata per metterci tutti dentro? Io ci siamo ritrovati con un gruppo di amici, di compagni di classe, che una delle persone più scadenti della classe è diventato direttore di rete. Senza concorso, senza niente, tentavo mettere. Non ce lo fa il nome, non ce lo fa il nome. No, non lo fa il nome, Massimo. Siamo proprio rimasti sbigottiti. Cioè, dopo il mistero delle piramidi, come ha fatto questo a diventare, arrivare a quel punto? Quindi, cioè, mi sembra che sia una questione di lana caprina. Cioè, la RAI, il 90% delle trasmissioni di informazione è propaganda, non è informazione. Grazie Massimo, anche Ermanno dalla provincia di Modena. Breve, breve. Bene, sì, d'accordo, però mi dovrebbe dare appena un po' più di spazio. Io sono molto soddisfatto della RAI, radio televisione, non sono uno di quelli che dice io la televisione non la guardo. No, io la guardo, guardo i programmi che mi interessano. che è tutta un'altra cosa. Ma dopo tanti anni di servizio veramente seguito, quest'anno mi sono veramente arrabbiato. Perché per non è possibile che in Rai non abbiano le risorse per tenersi quel tesoretto che era la Formula 1. Ecco perché ho telefonato, essendo di Modena come nascita, la io sente, conosco la bene sente, quel tesoro che è la Ferrari, e certo. Dovevano tenersi la sente, Formula 1, è scandaloso. La sente la cosa. Allora, Dimitri Deliolanes, quanto c'è il peso, quanto è stato il peso della politica nella ERT? Il peso della politica nella ERT è stato considerevole ed è andato in una direzione sola, cioè che la ERT non doveva assolutamente dare fastidio ai canali privati, e questo è avvenuto in due maniere. Ti dico, con i governi socialisti avveniva attraverso diretti interventi sul reportage, sul tipo di impostazione da dare al notiziario, all'informazione. Con i governi conservatori, visto che i conservatori sono un pochettino più scarsi a quadri, perché hanno meno dimestichezza con il potere, hanno governato di meno, insomma, questo è avvenuto attraverso la collocazione in posti di responsabilità, quindi presidenti, consiglieri d'amministrazione, direttori di rete e direttori del TG, di persone di scarsissima professionalità e capacità. E questo è avvenuto. Allora, siamo quasi in chiusura. Un'ultima cosa per Fabrizio Rondolino. Allora, io non la voglio mandare in tribunale, ma chi l'ha raccomandato, Mineo? Ah, chiedi a me? Sì, sì. No, non è stato raccomandato, cioè non lo so se è stato raccomandato, questo lo saprà lui. E la sua carriera, come la carriera di tutti gli altri giornalisti della RAI, è stata decisa dai partiti politici, e in particolare dal Partito Comunista, PDS, insomma quello lì che abbiamo tutti votato quando eravamo giovani. In questo caso il PD. Facciamo una cosa, chiudiamo per una volta, abbiamo 30 secondi, Massimo da Prato, buongiorno, 30 secondi, chiudiamo con un ascoltatore, va. Buongiorno, appunto Massimo da Prato, volevo intervenire perché essendo il tema praticamente il discorso della TV pubblica, in quanto secondo me... 20 secondi. Sì, non è pubblica, perché in quanto non dà chiaramente chiare visioni al cittadino di quello che effettivamente sta succedendo, e specialmente anche nei programmi di politica. Chiaramente quando viene un discorso serio, in quanto il cittadino è sta ad ascoltare, arriva tipo Ballarò Floris che cambia per sparare una cazzata. Questa è l'idea. Va bene, Massimo, questa è la sua opinione. La ringrazio, come ringrazio gli altri ascoltatori che non sono riuscito a far intervenire. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. Al centralino c'erano preziosissime come sempre Giulia e Rosa. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Se volete potete continuare a commentare anche sulla nostra pagina Facebook o sul mio account Twitter, Simone Spezia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 18 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.